ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Nello speciale di Linee d'ombra del sabato, quello che state sentendo in questo momento, vi raccontiamo la storia seriale che abbiamo iniziato a raccontare all'inizio della stagione. È la storia di Antonio Cocco. Siamo ormai alla puntata, all'episodio direi numero 45. Questo probabilmente è il 46esimo episodio. È la storia di un giovane uomo che scappa negli anni 50 dall'Italia per avere preso un cattivo voto a scuola e si ritrova in Francia. È un clandestino e la Francia gli dice: o torni a casa e ti fai 3 mesi di carcere, oppure ti arruoli nella legione straniera. Lui sceglie la seconda opzione e voilà, benvenuto nella legione straniera. Caro papà, 2 righe soltanto per darti esattamente le risposte alle tue domande. In quanto ai coupon, me li puoi mandare benissimo, con qualche soldo, e ti ringrazio infinitamente. Solo che non devi mettere il bollo da 10 con il timbro, così mi hanno detto alla posta. In quanto al permesso, ce l'hanno dato da 2 giorni, ma oggi ce l'hanno ripreso per una manovra a fuoco andata male. Uno ci ha rimesso la scorza. Ad ogni modo, uscirò forse domenica 9 o 10 agosto. Mi informerò se ci sono conventi, ma non credo. Col tenente abbiamo parlato delle tue lettere. Mi ha chiesto se mi chiamo proprio Cocco, se voglio avvertire a casa in caso di morte. Mi ha fatto fare 4 o 5 firme per vedere se era veramente la mia firma. Mi ha chiesto l'età, che io gli ho data esatta, come ti chiami, e altre cosucce poco importanti. Aveva un ammasso di carte sul mio conto, ma non sono riuscito bene a capire cosa ci fosse scritto. Spero mi chiami ancora, perché allora saprò come comportarmi, per via dell'asma e di altro. Al corso paracadutisti andrò a Sétif, Algeria. Non so quando partirò e se partirò, certo al massimo fra un mese. Cercherò di mettermi in contatto con qualche frate, se ce ne sono, e se non ne trovo, stringerò relazione col capitano cappellano del luogo. Se ti interessa, mi informerò come si chiama e ti darò il suo indirizzo. Per dirti la verità, sono stato sbalordito nel leggere tutte le autorità, i consoli, i generali e i presidenti che hai mosso solo per me. Luigi Cocco scrive al console generale ad Algeri e gli dice: sono il padre di Antonio. Il console era già stato, come dire, sensibilizzato alla causa, gli era stato fatto presente la vicenda di Antonio da alcuni diplomatici del Ministero degli Affari Esteri a Roma, quindi non sapeva che c'era la vicenda di questo ragazzo. E scrive il padre di Antonio, Luigi, scrive al console: e guardi, mi permetto di chiedere soltanto nel caso mio figlio dovesse farsi presente, presentarsi, mi faccia il piacere di dare i soldi, metta a disposizione quanto gli serve, che provvederò poi io a rimborsarla immediatamente. Capisco di chiedere una cosa fuori dall'ordinario, ma lei deve comprendere qual è la mia angoscia in una situazione del genere, e mi perdoni. Speriamo che da tutto questo groviglio di certificati e personalità salti fuori un piccolo legionario a capo chino diretto finalmente verso casa. Certo, però, non credevo che il tuo lavoro potesse smuovere tanta gente. E solo un papà come te poteva fare tanto per un figlio che gli ha buttato in faccia un'offesa grossa come la mia. Mi hai fatto star male, papà, al punto in cui mi dici che non sono stato sincero nella lettera a padre Legrand. Anche se, ripeto, l'affare d'essere rimpatriato o d'avere 2 o 3 mesi di prigione non me lo disse il tenente, me lo disse quello della polizia che mi portò in caserma, e credi che quando il tenente mi parlò di che cosa volevo decidere, ha avuto particolare importanza. Credi forse che non avrei desiderato venire a casa, che fossi proprio tanto stupido. Ormai, dopo il trattamento che avevo avuto dalla polizia, capivo come sarebbero andate le cose in seguito e quale libertà avevo scelto al posto di quella che mi potevate dare voi. In quanto all'asma, cerco di montarla, e credi che lo faccio con furbizia, ma ho già marcato visita la seconda volta per essa, e il dottore, dopo avermi fatto una sommarissima visita, mi diede 2 ceffoni e l'eterna aspirina. E Tony scrive da Saida e dice che sebbene non avesse mangiato e avesse fumato per un mese, non era riuscito a farsi riformare. Lui puntava molto sull'asma che aveva. Inutile, te l'ho detto, non riusciranno mai a trovarmi l'asma, perché di giorno se ne va completamente e credo che un po' alla volta se ne andrà anche di notte. Comincio a credere che l'aria asciutta dell'Africa sia una buona medicina per il mio male. Guarda che da quando sono arrivato qui ho migliorato di molto. A Sidi Bel Abbès passavo notti intere insonne. Ora assolutamente no. Mi dà solo fastidio. Può dipendere dal fatto forse che qui siamo circondati da montagne, siamo pure abbastanza alti sul livello del mare. Figurati che prima di andare alla visita, per smuovere l'asma, ho fumato una sigaretta e quasi non ci rimettevo l'anima. Ma non c'è stato verso per indurla a salire a galla. Fra giorni però vado personalmente dal tenente per chiedere una medicina per la mia asma, dicendo che quello stupido di dottore più che aspirine non me ne dà. Spero che mi faccia fare i raggi, altrimenti non so come me la cavo. Tentar non nuoce. Alla peggio mi daranno altri due ceffoni. Se potete mandatemi una grammatica francese, mi servirebbe molto, e due paia di mutande slip che sono senza. In quanto ai convenienti te lo saprò dire. Puoi scrivere però al nostro capitano cappellano, lui è una brava persona. Un abbraccio e un bacio. Tony. Cara mamma, ti sto scrivendo dall'ospedale di Saida. Non prendere paura, mi sono tagliato la mano con un coltello. Purtroppo il coltello era ben affilato e il taglio non è indifferente. Tanto che il dottore della compagnia insiste nel dire che mi sono tagliato di mia spontanea volontà. Guarda un po' cosa vanno a pensare qui. E non si sono ancora convinti. Sta a vedere che dovrò fare anche la prigione, perché è un male volontario. Qui in ospedale mamma non si sta tanto male. Si mangia abbastanza bene, non si fa niente tutto il santo giorno. Il guaio è che non si riceve posta. Non so perché, ma ben pochi qui dentro ne hanno avuta qualcuna. E non sa nemmeno quando potrò spedirti questa. Ho ricevuto la tua lettera 2 o 3 giorni fa e sinceramente sono rimasto un po' male quando mi hai scritto «A tutti scrivi meno che a tua mamma». Il mio pensiero è questo, che probabilmente mia mamma avrebbe avuto piacere di ricevere una lettera al giorno. No? E lui scriveva spessissimo al padre e aggiungeva quasi sempre qualcosa per la mamma. Per 2 o 3 fratelli aggiungeva sempre, e anche a mia madre. Credo che fosse un discorso un po' tattico di dire tutto quanto al credito italiano per sicurezza di risorgimento, eccetera. Sono rarissime le cose che mandava separatamente. C'è qualche lettera a mio fratello Cesco, qualche lettera a Lidania, qualche lettera mandata separatamente. Ci sono le stampe che ha mandato a me, quelle trovate nella baracca bruciata. Ma tentava di scrivere soprattutto a mio padre, perché era come un indirizzo facile che sicuramente veniva consegnato. Cioè, tuo padre riceveva delle lettere, certe volte metti che almeno 2 casi sicuramente era ubriaco quando l'ha scritto, e lui sapeva che il padre non avrebbe mandato subito sta roba a leggere in famiglia, ma avrebbe letto solo le parti che erano decenti e accettabili. Diciamo che alla sera, quando arrivava a casa, probabilmente alcune parti non le leggeva, anche se molto spesso dava da leggere soprattutto a Lidania. Quando lui arrivava come troppo emozionato, troppo commosso, come la prima cartolina è arrivato con anche per gli occhi, non riusciva neanche a parlare, l'ha consegnata a Lidania, che ha letto lei in tavola davanti a tutti. Cara mamma, se tu sapessi con quanta facilità vanno perse qui le lettere. Voi fate presto, le scrivete, fate 4 passi e le imbucate. Qui non è così facile. Lo scrivere è il meno. Trovare poi il mezzo per imbucarle è difficile. Guarda qui, ad esempio, sono senza niente. Ho dovuto chiedere all'infermiere la penna, ad un arabo dei fogli, ad un altro ancora l'inchiostro. Ora non so dove potrò prendere i bolli e la lettera e dove la imbucherò. Il santino che mi hai mandato l'ho ricevuto ed è l'unica cosa che porto sempre con me. Purtroppo qui in ospedale non c'è una chiesa cattolica, ma spesso viene un sacerdote di passaggio e proverò a fermarlo. Il guaio è che parla francese ed io me la cavo appena appena. Tony era davvero così cattolico a 18 anni o lo diceva anche un po' per accontentare la mamma? No, c'era un certo Don Germano Pattaro che veniva spessissimo a casa nostra, era un prete di Carmine, della parrocchia nostra, che però aveva una grande familiarità con noi. Mi ricordo una volta che ha detto, mentre passava con noi, che tutti i fratelli Cocchi ricevono una tal botta di educazione religiosa che passa il resto della loro vita a cancellarsela di dosso. Tony è stato fra i primi che proprio no, non era religioso. E diciamo che aveva certi criteri di giustizia fondamentali, questo sì, che in qualche modo collibono con un fatto così, ecco, ma era la giustizia in sé che mi teneva. Avrei tanto bisogno di un sacerdote per confessarmi, mettermi un po' in pace anche con Dio. Credimi, mamma, sento forte in me il desiderio di stare un po' in grazia di Dio per poter ricevere la Santissima Comunione, poter confidare con qualcuno tutte le mie pene, far cessare, insomma, quest'eterno tormento che mi rende sempre più difficile il già duro cammino che ho intrapreso. Spesso penso a tutti i sacrifici che farai per me, a quali privazioni ti sottoporrai per me, quali voti tu avrai fatto se riuscirò a ritornare in Italia. Ci penso spesso, sai, mamma, per non dire sempre. Ti privavi già di molte cose quando le cose andavano abbastanza bene a Venezia. Figurarsi adesso, quando sai che hai un figlio fuori casa, lontano da tutti e lontano anche da Dio. E mi viene da pensare, siccome lei andava ad assistere più di una messa al giorno, anche di Carmini, che anche questo facesse parte un po', chiamiamolo il voto, per tenersi vicino la Madonna, che facesse grazia, insomma. Tanto è vero che allora ha voluto che anch'io da Lucia pigliassimo, le chiamavamo le pazienze, cioè quella farina attorno al collo della Madonna di Carmini. E io credo che questo fatto qua sia riferito un po' a questo voto fatto dalla mamma in qualche modo per fatto una casa a Tony. Il microfono dello smartphone sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi. La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano. Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio. Linee d'ombra. Lui più di una volta nelle lettere che manda a casa lo chiama l'inferno in terra. La storia che vi stiamo raccontando infatti è basata sull'incartamento che Antonio scrive a casa al padre e a tutti i familiari, che è stato raccolto dall'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano. È stato rilasciato anche in un libro che si chiama La ridotta Isabel, perché lì sarà il posto in cui finirà Antonio in Indocina. Quindi attraverso queste lettere scopriamo chi è questo giovane uomo e che cosa è accaduto nella sua vita. Vorrei scriverti un sacco di cose su questo argomento, ma mi mancano le parole e non sono capace di collegare tutte le idee che ho in testa. Sono riuscito a sapere il nome del capitano cappellano di Sidi Bel Abbès, Dia Papà, che detto sacerdote ha molta influenza qui ed è conosciuto da tutti. Sarebbe bene che scrivesse papà, perché io in francese non saprei come cavarmela. E inoltre mandaste l'indirizzo al reverendo padre Legrand, perché vi ripeto che mi è molto difficile qui procurarmi i mezzi per scrivere e per imbucarla. Vi ripeto che ha moltissima influenza qui e da una sua parola può dipendere il mio rimpatrio. Padre Legrand. Vi ricordate? Beh, certo, il nome non lo ricordo, mi ricordo che si scriveva con mio padre. Qualche volta mio papà leggeva anche ciò che riceveva da Pierre Legrand, ma dopo tanto di più non so. Ho parlato orora con un'infermiera, mi ha detto che questa sera potrò parlare finalmente con il sacerdote dell'ospedale. Lascerò dello spazio per dirti com'è andata. Di inoltre a papà che qui non ci sono conventi, o meglio ce n'è uno, ma è maomettano per gli arabi. C'è una canonica con due o tre sacerdoti con i quali spero di mettermi presto in comunicazione. Ringrazia Mariella per il suo gentile pensiero e dille che sono quanto mai convinto che sentiate la mia mancanza. Anche Gianni mi ha scritto. Bravo. Cosa avevo scritto? Beh, no, non mi ricordo. Certamente gli scrivevo sempre. Allora, Tony è stato il fratello che mi ha insegnato a vogare, Sandro, che mi ha insegnato a nuotare bene. che mi ha insegnato come fare gli archi, le frecce, tutte queste robe qua. Per cui le mie avventure che avevo in giardino quando si in barca, gliele raccontavo. Infatti mi ricordo una volta che ero riuscito a tirare giù un colombo con una freccia e l'unica cosa che mi ha detto: guarda che non puoi averlo ucciso in vano, devi mangiarlo. Ma con una freccia, scusa, con un arco? Sì, fatta da me, freccia e arco, sul suo insegnamento, avevo beccato un colombo e ucciso in giardino di casa. E mi ricordo che questa regola morale, l'hai ucciso, però non puoi abbandonarlo, devi mangiarlo. Per cui probabilmente io gli raccontavo queste robe, insomma, no? Certamente io ero affascinato da ho ancora questa cartolina a casa con il disegno, era una cartolina in bianco e nero dipinta a mano di un gran serpente preso, e mi raccontavo queste cose qua e io ero affascinato, mi piaceva. Che ti ha disegnato lui per te? Questo. Diciamo, erano cartoline che poi venivano dipinte a colori a mano, come si usava, sì, e ce l'ho ancora a casa. Come è spedito a me, ma forse l'ho già detto 50 volte, la stampa di questo, non è un Buddha, è un gran sacerdote, qualcosa, attaccato in una capanna prima che dovessero incendiarla. E ce l'ho ancora attaccata a casa. Se ritornerò a Venezia ti farò un sacco di pistole e fucili e ti racconterò un mucchio di cose dei villaggi neri, degli arabi, dei serpenti e delle iene, se sapessi quanto fanno paura di notte, mentre sei solo. Con questo, mamma, termino, abbracciando te e tutti. Tony. PS, mi dispiace, ma con quel padre mi sarà molto difficile parlare, perché viene qui raramente. Dovrò ancora aspettare. Aspettare di uscire dall'ospedale, perlomeno. T'abbraccio e ti bacio ancora. Tony. Carissimo papà, eccomi a te, come promesso nell'ultima mia. E puoi immaginare con quale piacere lo faccia. Perché quando scrivo mi sembra d'essere a casa mia, tra tutti voi, e dimentico che sono tremendamente lontano. Purtroppo non dura che pochi minuti, questa illusione, perché ben presto sono costretto a riportarmi alla realtà. E allora sono preso da rimorsi per l'enormità del mio errore e penso a quale tesoro abbia abbandonato per un banale esame andato male. Sono cose che sappiamo per sentito dire, perché lui ha raccontato, soprattutto alla Mariella, credo, e poco in famiglia, cioè che lui si era preparato a suo esame, a sua interrogazione in italiano, anche con mio padre. Alla sera si mettevano là a studiare, mio padre lo aiutava, eccetera, eccetera. Per cui si sentiva abbastanza preparato. A lui non piaceva andare a scuola, lui voleva andare a lavorare. Però, insomma, il suo esame era molto importante per la fine dell'anno. Non c'è mai stato un grande feeling tra il professore e Tony, mai. E non so bene come sia andata l'interrogazione, sta di fatto che il professore è andato a mandare al posto in malo modo. Quello che io so, perché era contatto secondo me da Mariella, che si era contatto, si è alzato in nero, incazzato nero, l'ha mandato, non posso dire, a quel paese in maniera violenta, è uscito sbattendo la porta ed è uscito dalla scuola anche sbattendo la porta. Gianluigi Cortese, il nipote di Tony, attraverso una sua ricerca è riuscito ad entrare in contatto a distanza di 70 anni con Rienzo De Angelis, il compagno di banco di Tony di allora, e ha ricostruito come sono andate quel giorno le cose in classe. Il 23 maggio del 52 viene interrogato sul Leopardi e va tutto bene. Dopodiché Antonio cominciato a dire al professore che lui voleva dire, come secondo lui, perché Leopardi aveva scritto questa cosa, eccetera. E il professore l'ha rimproverato, gli ha detto di stai zitto che non hai studiato per tutto l'anno, adesso a me non interessano le tue considerazioni. E Antonio ha insistito, allora gli ha detto: guarda, basta, altrimenti ti boccio. Tony, mi racconta Rienzo, è rimasto in silenzio, è venuto al banco, non mi ha detto una parola. Ha preso i suoi libri, i suoi quaderni e se n'è andato. Ha chiuso la porta, ecco, questo mi ha colpito perché Rienzo aveva molto chiara ancora l'immagine, perché mi ha detto, ha chiuso la porta con forza ma non l'ha sbattuta. Mancava ancora mezz'ora di lezione e con il professore, che inevitabilmente gli avrebbe messo il 7 in condotta, andava a ottobre, allora si andava a ottobre con tutte le materie, cioè che doveva riportare tutte le materie a ottobre. E racconta Rienzo, mi ha raccontato che qualche tempo dopo, credo un anno dopo, andando in spiaggia al Lido, vide il professore d'italiano, incontrò il professore d'italiano. Rienzo mi racconta, io non avevo paura di nessuno, comunque fa, mi sono seduto, ho aspettato che si sedesse, mi sono seduto vicino a lui in maniera che non potesse sfuggirmi e gli ho detto, professore, sono Rienzo, l'amico di Tony. Tony era il migliore, lei ce l'ha sulla coscienza. E poi mi ha raccontato che questo professore si mise a piangere. Finisce così questa puntata speciale col racconto di un professore che per il senso di colpa si mette a piangere. Se avete voglia di recuperare tutte le puntate andate sul nostro sito, se avete voglia invece di ascoltare Linee d'Ombra ci sentiamo lunedì alle 15 puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.